Avventurieri, davanti a voi ci sono 12 uova numerate, disposte in cerchio dentro un nido incandescente. 11 custodiscono cuccioli di fenice, mentre una cela la chiave del fuoco, l'artefatto che cercate. Sotto il nido, incisa nella pietra, una scritta: Fibonacci 21. La sequenza di Fibonacci è una catena di numeri in cui ogni elemento è la somma dei due precedenti. Partendo da 0 e 1 si ottiene 0, 1, 1, dato da 0 più 1, 2, dato da 1 più 1, 3, dato da 1 più 2, 5, dato da 2 più 3, e così via. Gli indici delle uova partono da 1. Dunque, quale uovo contiene il numero 21 nella sequenza di Fibonacci?